Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. È fantastico osservare come certi argomenti perdano immediatamente d'attualità. Io l'altro pomeriggio stavo casualmente davanti al televisore, da altre attenzioni compreso, quando ho dato un'occhiata ai programmi che normalmente intrattengono chi sta a casa in quel momento. Sui canali nazionali soprattutto, mi sembra che fosse Rai 1 o qualcosa del genere, perlomeno. C'era Mara Venier e un altro suo collega che stavano ancora parlando con un inviato che si trovava a Bembrate. Stavano ancora parlando del caso di Yara, la ragazza scomparsa. E mi rendo conto che improvvisamente quello che sembrava l'elemento clou soltanto una settimana fa, 10 giorni fa, era totalmente fuori tempo. E quindi questo mi dava l'idea che normalmente l'attenzione generalizzata verso i grandi delitti, le ragazze scomparse, le contrapposizioni, Sara Pugliese, Yara Bergamasca, quali sono le due realtà, una famiglia che tace, che si chiude dietro riserva, l'altra famiglia che invece al contrario diventa elemento portante di un grande eterno interminabile talk show fatto di colpi di scena, di rivelazioni, di anticipazioni, e alla fine di entrambi i casi non si sa assolutamente nulla. Si è parlato a lungo dei cani svizzeri che sono meglio dei cani pugliesi, e delle forze che si sono immediatamente mobilitate, dell'atteggiamento rispettoso, austero, che si è stretto attorno alle parrocchie in preghiere mentre da altre parti andavano dietro le truppe per farsi fotografare. Tutto lecito, tutto degno di attenzione, tutto elemento fondamentale per decifrare quello che è lo status sociale della nostra contemporaneità. Ma però dietro tutto questo, dietro anni di televisione che racconta grandi delitti, che ci porta a zoccoli, che ci porta... ho detto zoccoli, mi raccomando, cioè oggetti che si mettono ai piedi, che possono essere corpo contundente, quindi arma del delitto, e mi riferisco al primo fantastico caso dei tanti che hanno appassionato poi la sete sanguinolenta degli utenti della televisione. Poi abbiamo visto i plastici, poi abbiamo visto le armi del delitto, poi abbiamo visto le macchine della verità, poi abbiamo visto gli esperti in mimica facciale che decifravano dai filmati della televisione quelli che potevano essere i punti in cui il sospettato, lo zio orco, che poi non è più era lo zio orco, poi non era più l'assassino, poi era semplicemente un padre che nascondeva la figlia, o forse nemmeno tutto questo, il contrario di tutto questo. Siamo diventati tutti esperti, tutti sappiamo tutto sul DNA, o perlomeno pensiamo di saperlo, tutto sappiamo sulle tracce organiche di violenza carnale, tutto sappiamo sugli stati di decomposizione di un cadavere, tutto sappiamo sulle tracce ematiche, tutto sappiamo sulle mimiche facciali, appunto, tutto sappiamo sulle tracce, ma nessuno sa niente di nulla. Come mai in Italia, in questo momento, ci sono così tanti delitti che, per circostanze dovute naturalmente al grande spettacolo della televisione e dei media, che in carenza di manifestazioni di piazza, in carenza di fiducia ai governi, devono occuparsi pur di qualcosa, e quindi si occupano di ragazzine scomparse, quella ragazzina invece con altra, perché c'è un contesto tale per cui la notizia può crescere. Beh, io l'altro giorno vedevo Mara Venier, ancora con la faccia impietrita dal botulino, nella posizione di mamma affranta o solidale affezione per coloro che stanno soffrendo dall'altra parte della telecamera, e che stava lì e ascoltava l'ennesimo racconto che diceva che non c'era niente da dire. 800 24 0024. Perché l'Italia è piena, è così gonfia, è così gloriosamente rappresentata in tanti delitti insolubili? Ho pensato che si potesse sospettare di me addirittura per qualche altra cosa di molto più grave. Sei il mostro. Il mostro, l'assassino di Vecciani, non pensi lo so. Che successo avrebbe se lei fosse il mostro? Sta puntata di porta a porta, la ritrasmettiamo 50 volte. Certo. Grazie a Dio non lo so. Non lo ma so. In qualche però... momento dice, oddio, questi che si sono messi in testa, ci ha pensato? Certo, ci ho pensato e ho tentato naturalmente di valutare se potessero esserci degli elementi che falsamente mi avrebbero potuto mettere nei guai, perché ovviamente ho la coscienza pulita. Lui ha chiesto, non è bello quella cosa, comunque da scartare, perché altrimenti non avrebbe scritto nella. La cosa che più colpisce, che poi soltanto a distanza di pochi mesi da quello che sembrava l'elemento clou, il luogo dell'immaginario collettivo, il punto più alto dell'emotività che affratellava, accomunava, metteva in un'enorme condivisione di apprensione tutto il popolo dell'utente, improvvisamente scema e si lascia sovrapporre da altre situazioni. Oggi il fatto del giorno sui giornali era se fossero falsi poliziotti o reali provocatori coloro che causarono i 20 miliardi di 20 milioni di danni al comune di Roma in una grande, favolosa, gioiosa manifestazione di piazza degli studenti dell'altro ieri. Beh, questo lo chiediamo innanzitutto a un nostro ospite che voi già conoscete, che è Vincenzo Mastronardi. Mastronardi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a voi. Mastronardi è psichiatra, criminologo, è titolare della cattedra di psicopatologia forense presso la prima facoltà di medicina all'Università di Roma La Sapienza. Ha scritto vari libri su grandi casi che hanno appassionato comunque l'opinione pubblica. Ha scritto i serial killer, il volto segreto degli assassini seriali, chi sono e cosa pensano. Ha scritto sulle sette sataniche, ultimamente ha scritto anche su Meredith, Luci e ombre a Perugia, Armando Editore, anno 2009. Perugia sembrava anche questo uno dei casi più appassionanti, anche sulla vicenda dei fidanzati maledetti, della ragazza uccisa, di questa città che da un punto di vista sembrava proteggere la privatezza delle sue oscure vicende notturne, d'altra parte sembrava anche lì diventato un grande set per mesi di troupe televisive che stanno lì e raccontavano ciò che alla fine si è risolto in maniera molto poco decifrabile. Secondo lei, Mastronardi, esiste una fattispecie nazionale per cui noi ci appassioniamo tanto ai delitti come se fossero episodi di fiction televisiva e poi alla fine non si arriva mai a una certezza, non sappiamo nulla manco nemmeno sul mostro di Firenze, di cosa ci sia poi di certo, ci sono continuamente dubbi, perché non si arriva mai a un punto finale? Dunque dobbiamo chiarire questo, ma a livello internazionale questo tutela le nostre ansie e i sensi di colpa che qui o là comunque potremmo eventualmente farci sul settore investigativo, nel senso che stiamo facendo tutto quanto quello che si deve fare per riuscire a scoprire la verità, le verità, e a questo punto guardando oltre confine, guardando quello che accade in Nord America così come in Sud America, beh, una percentuale di casi sicuramente resterà inesplorata. Io lo sto toccando con mano perché, dato che ho strutturato un master con l'Università di Polizia Federale Argentina in Buenos Aires, mi reco un paio di volte all'anno lì e, approfittando delle lezioni quindi a polizia, forze dell'ordine, magistrati eccetera, in quel master lì e anche in seminari di diverso genere che ho lì a Buenos Aires, mi sono reso conto che stanno ancora più indietro rispetto a noi. Ma detto questo, ci veniamo subito a questo argomento. Ma forse noi abbiamo una maggiore attesa perché entrano così violentemente, prepotentemente nell'opinione pubblica questi delitti, diventano materia di quotidiana dissertazione che alla fine ci aspettiamo che alla fine qualcosa si risolva. Questo è quello che colpisce l'attenzione. In realtà dobbiamo tener conto che non attira tanto il marito che uccide la moglie, lì dove si sa il colpevole qual è, ma quanto invece lo stimolo investigativo che invia il caso in cui non c'è un colpevole, non si sa se il colpevole può essere stato la figlia, il padre o quant'altri. Ecco, lì a questo punto c'è la follia del dubbio che attanaglia, il tarlo che entra in tutti noi e stimola questo puzzle che dovremmo risolvere. Però mi scusi, Mastronardi, il dubbio ci viene e le pulce all'orecchio ci vengono perché prima ancora che gli inquirenti preposti alla risoluzione del caso, perlomeno all'indagine del caso, diano qualche risultato ufficiale, già siamo pronti a delle grandi tavole rotonde di esperti o di presunti tali o di personaggi che normalmente frequentano i salotti televisivi o scrivono sui giornali, che già ci danno tutta una serie di deduzioni. Io ricordo ancora in un salotto televisivo all'indomani della notizia dell'uccisione di Sara Scazzi, del ritrovamento del suo cadavere, già aveva dato per scontato che il padre era un violentatore seriale, aveva già violentato tutte le figlie, probabilmente era d'uso a fare questa cosa, cosa che mi sembra oggi abbastanza ritornata indietro come ipotesi. Certo, no, realmente ci sono qualunquismi investigativi, diciamolo con il loro giusto termine, lì dove si coglie benissimo peraltro che chi interviene è alla ricerca, poverino, con una pena che comunica all'ascoltatore, che però sente naturalmente una necessità di fugare a se stesso le proprie ansie, ma questo lo si coglie, ecco che stiamo cercando di così istruire un momentino per evitare che lo spettatore possa essere deviato da false considerazioni e percezioni. Con la nostra facoltà di medicina abbiamo strutturato il corso di formazione di giornalismo investigativo, nel senso che proprio per evitare quegli errori che vengono fatti di false interpretazioni, siccome ovviamente il giornalista ha diritto ad essere presente, proprio un diritto costituzionalmente garantito, e a questo punto che cosa faremo? Dobbiamo preoccuparci di evitare quelle che possono essere le distorsioni interpretative che mi consenta questo passaggio che è preziosissimo. In Australia hanno voluto fare un paragone per vedere lo scoring, cioè il punteggio tra investigatori della polizia, tra investigatori privati, studenti universitari e medium. Bene, per vedere chi arrivava al primo posto, chi arrivava all'ultimo posto. Sai chi è giunto al primo posto? Non la polizia, non i medium che sono arrivati all'ultimo posto, ma gli studenti universitari, proprio perché non si affezionano alla prima ipotesi distorta che sia, ma verificano quindi sottoponendo se stessi a revisione critica. Questo ci lascia capire quanto è pericoloso poi affezionarsi alla prima tesi o alla prima ipotesi. Comunque anche la vicenda del medium, che sembra far parte dei paradossi, anche nell'ultimo episodio della ragazza scomparsa a Brembate, se è venuta una medium, a un certo punto i giornali hanno dato notizia, è arrivata la medium, anche lei pare che debba essere una fornitrice di dati di certezza. No, volevo farle ascoltare in realtà quanto la sua professione ormai sia diventata di facile divulgazione. Esiste un criminologo, Sandro Lopez, che fa lezioni su YouTube e ci insegna in realtà quali siano i segreti della vostra professione. Bentornati sulla scena del crimine. Oggi facciamo un excursus criminalistico su alcuni eventi che stanno succedendo in questo momento. Questi stab, che cosa sono? Sentiamo parlare che i carabinieri, la polizia o dei professionisti hanno eseguito uno stab che ha potuto dare la positività o la negatività. Certamente è un fatto importante, è una ricerca quasi primaria per chi ha utilizzato arma da fuoco. Bene, questo stab viene normalmente eseguito su... Vincenzo Mastronardi, vede che alla fine quella che è una professione che voi insegnate nelle aule universitarie ha anche i suoi canali di divulgazione, ciò dimostra che in realtà c'è una passione non sopita nell'umanità di apprendere gli strumenti. Sì, assolutamente sì, ma questo lo diceva Groddeck già, lui diceva: noi abbiamo necessità di vedere il tutto nero fuori di noi per distinguerlo dal tutto bianco che invece deve esserci in noi, quindi voglio dire, non è morbosità, ma è proprio necessità di differenziazione. Il diverso è fuori da noi, non è in noi, e poi si scopre che può anche essere in noi, naturalmente non lo occultiamo a noi stessi, però è una necessità istintuale. Sì, l'unica cosa certa che mi sembra di aver capito nei delitti sviscerati da giornale e televisione, che in realtà l'opera delittuosa si annida nella normalità. Abbiamo tutte villette fantastiche, meravigliose, costruite con grandi sacrifici, civettole, abbiamo tutte famiglie all'apparenza perfettamente coesa, abbiamo tutti bravi lavoratori, ottime madri di famiglia, meravigliosi vicini di casa, stupendi figli. Quindi questo almeno è un dato che abbiamo acquisito. Sentiamo Maurizio. Maurizio. Sì, buongiorno, Maurizio Di Bella. Io telefono per questo, io devo dar ragione a lei, perché tipo trasmissioni come Chi l'ha visto, io la chiamerei più che altro adesso Chi l'ha fatto, perché vedo che si occupano molto di gialli, di cose che si sanno già. Vabbè, però è lecito farlo, mica uno non deve limitare la possibilità di esprimersi anche ai colleghi. È una trasmissione che dura da tantissimi anni, ha successo, ha avuto delle botte di fortuna, detto cinicamente, in questi ultimi mesi, perché gli è capitato di proclamare in diretta delle svolte essenziali in delitti che appassionavano il pubblico, quindi per questo è diventato ancora più un cult. Sì, però qual è il suo problema? Ma il mio problema era che io ho fatto questo paragone ai tempi che c'era la Raffai che faceva Chi l'ha visto. Io bene o male so, leggendo in giro, non lo fa più da almeno una quindicina d'anni. Esatto, però ogni giorno spariscono decine o centinaia di persone, ed è una trasmissione che era molto utile, ne parlano giusto di 3 o 4, e che realmente c'è gente che cerca i propri figli, i mariti e parenti. Per carità, la trasmissione è interessante, l'odio si aumenta quando parlano appunto di queste persone uccise come Iaraco, come altre, però dovrebbero parlarne un po' meno e lasciar lavorare di più. Problema che devo dirlo a onor del vero: Chi l'ha visto copre un vuoto istituzionale. In realtà noi non abbiamo un archivio coordinato, articolato e organizzato sulle persone scomparse, con tutti i dati come ce l'ha Chi l'ha visto. Quindi Chi l'ha visto in qualche maniera copre un buco che in realtà andrebbe senz'altro risolto, che manca una banca dati interconnessa fra le varie forze di polizia su tutte le persone scomparse. Le risulta, Vincenzo Mastronardi? Sì, in realtà è così, la banca dati la si sta costruendo con molta fatica, e peraltro sarà sempre un numero oscuro, comunque mai perfettamente colmabile. Dobbiamo riconoscere alle forze dell'ordine comunque grandi passi avanti che sono stati fatti finora, meno male, ma sotto tutti i punti di vista, sotto sia il profilo relativo alle tracce biologiche che a quelle cliniche, investigative, sociologiche, criminalistiche. Non dimentichiamo le celle telefoniche, hanno permesso di risolvere moltissimi casi. Sì, questa è un'altra vicenda di cui siamo stati ultimamente dotti, il passaggio tra una cella e l'altra dei telefoni cellulari, che determina la localizzazione del presunto autore, complice o fiancheggiatore di un delitto. Ma anche in questo c'è una certezza, oppure anche qua è un dato abbastanza labile da interpretare? No, dobbiamo considerare che se in una zona, qui dove siamo noi o lei o che sia, abbiamo intorno a noi nel raggio di 10 chilometri 10 celle, è chiaro che se fossero tutte quante sature perché è un periodo festivo, la comunicazione si aggancia alla cella che è all'undicesimo chilometro. Quindi se avviene un delitto nell'undicesimo chilometro non potranno mai accusare noi, perché noi invece siamo in un centro che non è saturo, con tutte le nostre celle sature. Ecco che cosa accade: che se si trova una sua telefonata a 25 chilometri di distanza, ed è una zona dove ci sono molte celle, non in una zona come capita in campagna dove ci sono una cella a distanza di 15 chilometri magari l'una dall'altra, in quel caso lì può rimbalzare sulla cella di 15 chilometri. Ma questo ecco semplicemente che... è didattico dirlo, perché non si pensi mai che ci sono che ci sono dei dati così certi. I dati vanno sempre interpretati. Interpretabili caso per caso. Qui è il rigore che dobbiamo imporre a noi stessi. Era deciso a trasformare in realtà i suoi incubi a qualunque prezzo. C'erano stati dei segnali inquietanti nella vita di Jeff, ma nessuno li aveva colti. La mia mente era un vortice di scene di violenza e di sesso. Nessuno si era accorto che decine di giovani stavano sparendo nel nulla. Li uccideva perché non voleva perderli. Qua si parla di Jeff Dahmer, il cannibale Milwaukee, lo ricordiamo, fa parte ormai della preistoria dei nostri ricordi legati ai grandi crimini. 800240024, questa mattina abbiamo ripreso un argomento che non sembra più appetibile per nessuno, che ormai è relegato nei programmini per anziani pomeridiani, in cui ancora ci sono delle sbaffate lontane di Avetrana, di Brembate, in cui ancora si parla per un pubblico sempre più in catatonia acuta di quelli che sono i grandi delitti. Sentiamo invece Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Un ascoltatore. Dunque, io di lavoro faccio il giornalista, e posso raccontare la mia esperienza che ho condiviso personalmente con i miei colleghi. Dalla provincia di Pavia e dalle zone limitrofe abbiamo seguito tre grandi vicende che poi hanno avuto un grosso riscontro a livello nazionale, dal rapimento di Casella all'omicidio di Letizia Verdini con il padre di tutti i sassi del Cavalcavia, della Tortona, sì, fino all'omicidio al giallo di Garlasco. Ecco, io riflettendo con gli altri colleghi ti ringrazio della possibilità che ho di sfogarmi in questo senso, avendo raccolto anche le sensazioni di altri colleghi. Noi ci siamo resi conto che nel corso di questi anni il rapporto tra i mass media e i grandi fatti di cronaca è diventato sempre più, volendo fare un paragone un po' paradossale, quello che ai tempi era, ai tempi dei greci e dei latini, la tragedia greca, no? Dove i giornalisti svolgono un po' il ruolo del coro, di sottolineare con degli odi stupore le emozioni dei protagonisti. Non so se ci avete fatto caso, ma ultimamente i gialli vengono sintetizzati dai nomi dei protagonisti: c'è Meredith, c'è Chiara, c'è Alberto. Eh certo, è vero. Ci sono i nomi, vengono personificati, quasi che dando un nome a questi personaggi gli si svincola dalla tragedia che li hanno vissuti, li si rende proprio come personaggi di una tragedia greca, dove il rapporto col fatto, col delitto, alla fine è marginale. Ci sono questi personaggi che vivono queste vicende e a un certo punto ho la sensazione e la paura del giornalista che sfugga la trama che ha portato. No, ho capito questi... perfettamente quello che stai dicendo e ci sto riflettendo, in effetti è molto vero. Diciamo, i giornalisti che stanno sul luogo del delitto riescono a rendere sfumata, a battere quella barriera tra reale e immaginario, per cui improvvisamente in un luogo dove accade realmente, concretamente, un fatto che interessa gli uomini, interessa il tempo che stiamo vivendo, riesce a tracimare lentamente, ma anzi molto velocemente, diciamo, dati i mezzi potenti che abbiamo a disposizione, nel territorio del romanzo, nel territorio del fantastico, nel territorio della rappresentazione. Quindi ogni protagonista, ogni soggetto indagato, ogni vittima, ogni complice, ogni testimone, ogni persona informata dei fatti assume ruolo in una grande commedia, una grande tragedia, una grande farsa, a seconda delle fattispecie. Tu dicevi questo? Questo, ho la sensazione che poi sfugge proprio la trama che ha portato questi protagonisti. Basta vedere come io lo chiamo il circo mediatico, ma anche tra noi giornalisti ci chiamiamo il circo mediatico. Quando esce un avvocato, tutti lì coi taccuini, con i microfoni, sperando che questa persona aggredita, assalita, possa dire qualcosa di più di quello che poi alla fine dice. Sto cercando di. E poi adesso non entro nelle fattispecie più legate a fatti professionali, no, quello certo. Che la notizia non la dice agli altri, è quello esatto. Che si prende la parte della persona e gli altri, e questa sorta di spartizione collettiva delle notizie, questa cosa la sai te, la dobbiamo sapere tutti, bisogna condividere sempre le notizie, e quindi si crea questo meccanismo parallelo rispetto alla storia che è facile che poi riesca a confondere molto facilmente chi la osserva dalla televisione. Ti ringrazio, riprendo con Vincenzo Mastronardi, psichiatra e criminologo. Aggiunto il nostro collega ascoltatore qualche elemento in più utile a capire il perché di questa forbice fra realtà e rappresentazione della medesima nel caso dei grandi delitti, secondo lei? Sì, beh, assolutamente sì, ci sono interpretazioni poliedriche, c'è anche ovviamente la necessità di curare l'audience che può più interessare. Mi spiego meglio, abbiamo fatto tutta una ricerca appunto con Iadicicco, Roberto Iadicicco dell'Agenzia Italia, e Giorgino del TG1 che insegna da noi in università, e quindi lui ha è un luminare della materia, la scelta delle notizie, quale è la priorità da dare alla scelta delle notizie. Ebbene, ci sono notizie che si affievoliscono poi attraverso il tempo, per cui così come è capitato appunto per Cogne, a un certo punto dalla mattina alla sera non si parlava altro che di Cogne, di Anna Maria Franzoni. A un certo punto c'è stata una saturazione emozionale, per cui bisognava cercare qualcosa di diverso. Sì, ma non può essere il marketing Gandini, emotivo della televisione. Il giudice Gandini che si sposava, poi dopo che cominciava a relazionare invece con la giornalista. La collega di Giorgino. Sì. La collega di Giorgino. Questo è stato quello, l'audience come poi emozionalmente ha attratto. Beh, tracimato dal TG1 a Novella 2000, ma d'altronde questa è la contaminazione fra i media. Senta, professore, io so che lei in questo momento ha un impegno, quindi la saluto e la ringrazio. E la passiamo a un'altra fase di questa nostra trasmissione. Del cadavere rimane soltanto il busto parzialmente bruciato. Gli arti, così come parte della testa, sono stati divorati dai cani. A bordo dell'auto c'era un uomo completamente carbonizzato che non è ancora stato identificato. Scorpo di un uomo quasi completamente carbonizzato è stato trovato questa mattina nel Napoletano, vicino a Santa Anastasia. Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme nella zona industriale di Mazzocchio, tra Fossanova e Priverno, in una stradina isolata. Un'altra materia in cui stiamo diventando esperti è la dissezione cadaverica, è l'osservazione del cadavere, è i segni lasciati, le tracce organiche, lo stato di putrefazione. Noi siamo tutti diventati degli esperti anatomopatologi, degli esperti medici legali. In realtà su questo ci sarebbe molto da dire, non l'abbiamo mai ripetuto abbastanza, siamo stati protagonisti di una fortunata trasmissione di Radio 24 che ha appassionato gli ascoltatori quest'estate, Corpi, in cui una valente medico legale, patologa forense come Cristina Cattano, che è stata anche autrice di vari romanzi, anzi saggi scritti in prosa romanzesca ma attinenti a reali fatti da lei osservati, in cui ha raccontato le storie delle ossa, dei cadaveri, delle vicende che le sono passate per le mani. Si chiamava Corpi, lo ricordate, era una meravigliosa serie radiofonica. Cristina Cattano l'abbiamo al telefono. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Cristina Cattano, ricordo, medico legale, patologo forense, autrice di vari libri sulla criminologia. Ti abbiamo interrotto, Cristina, che avevi un mezzo omicidio per le mani questa mattina. Che significa? Per modo di dire, sì. Cosa, è nel vostro gergo un mezzo omicidio significa un cadavere che non si sa bene se è morto in morte naturale o no, ammazzato? No, per fortuna si sa che è morto, è un po' complicato, non si riesce a capire bene che cosa è successo, come spesso succede, quindi. Sei riuscita a capirlo? Forse sì, forse ce l'abbiamo fatta. Adesso quindi, poi ritorno e vediamo. Quindi mentre il cadavere di là ti aspetta per definire chi l'ha ammazzato, se è morto per una volontà unicamente del suo stato naturale, vediamo di capire un po' meglio anche questa questione. Quali sono, ripetiamolo perché vale la pena di ripeterlo, noi siamo convinti che alcuni test che si fanno su tracce ematiche, su liquidi organici, su analisi fatte sul luogo del delitto diano delle certezze. Qual è il punto invece di caduta di queste nostre certezze? Ma il punto di caduta, e questo l'abbiamo detto tantissime volte, sono gli errori dei metodi e le aspettative che si hanno. E magari ci ricolleghiamo, io ho sentito una parte della trasmissione mentre ero in attesa che mi sembrava molto interessante, quella che riguardava i media, che possiamo riallacciare benissimo a questa problematica. E è vero che, non ho sentito quello che è stato detto prima, io condannerei l'uso che si fa morboso di questi casi, a volte da parte dei giornalisti, ovviamente ci sono gli spettatori che le leggono, le guardano. riguardano queste cose. La deontologia è importante, bisognerebbe sempre rispettarla, ma credo che a questo punto, visto che c'è questo desiderio di conoscenza, è fondamentale, sarebbe fondamentale, forse anche risolutivo in parte, sempre che il giornalista sia onesto, riuscire a educarlo per comprendere forse cose che a volte neanche i giudici sanno, cioè quali sono i limiti di queste indagini. Questa è una cosa interessantissima. Poi Cristina, adesso ti lascio perché devo dare le notizie del traffico, però ti lascio con una provocazione. Diciamo però, la grande macchina mediatica ha dato celebrità a molte persone che fanno anche la tua professione. Non ti ho ancora visto come protagonista di un talk show televisivo o di un tuo programma, ma ci sono delle tue bionde colleghe, non fanno il tuo mestiere, ma c'è una fantastica criminologa bionda e procace che allo stesso tempo è consulente in un reale fatto di cronaca e grande e meravigliosa protagonista di trasmissioni televisive in cui racconta quelli che sono i segreti della sua professione. E tu sei fuori da questo giro. Io sono fuori dal giro, ho voluto rimanere fuori da questo giro i media cerco di usarli tra virgolette per pubblicizzare problematiche, il problema dei cadaveri sconosciuti eccetera, e sono contraria a parlare di casi aperti che sto trattando ovviamente o che stanno trattando colleghi in televisione. Questa è una lotta deontologica che farò fino alla morte, credo. Ti faccio una domanda pratica. Ultimamente una delle immagini più legate all'immaginario televisivo nel campo degli ultimi delitti sono i cani. I cani sono stati i protagonisti, questi cani che vanno, annusano, circondati da un codazzo di troupe televisive. Qual è l'effettivo ruolo del cane? Qui entriamo nell'ambito degli atti di sopralogistica più difficili in assoluto. I cani nella medicina legale vengono tirati in ballo quando c'è da cercare cadaveri occultati o comunque dispersi, quindi o in superficie o soprattutto occultati in profondità, quindi nascosti e così via. Che sono addestrati a sentire l'odore del sangue e del cadavere? Ecco. Allora, i cani hanno degli addestramenti vari. I cani possono essere addestrati su sangue umano oppure possono essere addestrati su materiale animale tipo di maiale, per esempio, che è molto simile. Ci sono delle scuole diverse, poi ci sono anche delle teorie scientifiche diverse. Alcuni dicono che il cane riesca ad identificare la molecola umana specifica, altri no. Io sono più per la seconda, anche perché le molecole di decomposizione si cambiano costantemente e sono molti gli odori che potrebbe incontrare il cane. Deve riuscire a riconoscere il comune denominatore, poi basta che segnali qualcosa, saremo noi poi a verificare se si tratta di specie umana, di qualche cosa di botanico o di altro. Ma il problema è che si pensa che il cane, come tutte le altre metodiche per cercare un cadavere occultato, sia così pronto fatto e senza errore e di massima affidabilità. Sì, come fatto Polino poliziotto con Pluto, gli fanno usare un calzino e trova subito la persona. E così non è. Per esempio, i cani da cadavere, che sono soltanto uno dei, tra l'altro faccio una piccola premessa, quando si ricerca un cadavere occultato sono mille i mezzi, ogni situazione è a sé. Abbiamo delle difficoltà di protocolli in Italia, ma è anche molto difficile, è molto poco protocollabile la situazione, perché dipende dall'ambiente e tu puoi aver bisogno del cane così come della geofisica, quindi georadar per vedere cosa c'è sotto la terra, così come di un buon botanico o di un buon geologo che ti guardi, che vedano come è cambiata lo scenario in quel bosco, in quel campo di grano, per capire che se la terra può essere stata smossa e quindi se lì sotto ci può essere qualche cosa di nascosto o in decomposizione. Quindi fermo restando che è estremamente multidisciplinare, i cani sono soltanto una piccolissima parte, devo dire che i cani possono essere molto utili, ma sono dei mezzi di screening. Il cane non è una macchina, ma ha un errore come se fosse una macchina e può avere dei falsi positivi, può avere dei falsi negativi, dipende molto dal contatto e dal rapporto che c'è tra il cane e il suo conduttore. Quindi Cristina, se volessi proprio, visto che la sigla ci sta portando via, ma l'argomento è talmente, la prossima volta spero non avrai un cadavere per le mani e ti vorrò sentire con molta più attenzione. Mi sembra che, se vogliamo trarre una conclusione a questa trasmissione, che coloro che raccontano e quindi rendono appetibile a tutti, rendono interessante, rendono centrale la scena del delitto, dovrebbero avere alle basi perlomeno delle conoscenze simili a quelle che stai nucleando questa mattina. Non basta vedere un cane che annusa per terra e corrigli dietro con la telecamera, bisogna dire che quel cane in realtà molte volte fa parte della grande scenografia che trasforma il teatro di un delitto in un grande romanzo popolare. A domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.